Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io non ho invitato il sindaco Marino. Chiaro? Io non ho fatto e ho chiesto agli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui è venuto, lui si professa cattolico, è venuto spontaneamente. Era questo, primo, ma è chiaro, eh? È chiaro o no, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che il Papa non ha invitato Marino a Filadelfia? Scoppia una nuova polemica, non bastano tutte le accuse al sindaco di Roma per il fatto che, secondo appunto i detrattori, trascura la città di Roma, se ne va in viaggio, va in vacanza, questa volta anche a Filadelfia. No, c'è anche il Papa che dice: io non l'ho mai invitato a Filadelfia. Sapete che era di ritorno, l'ha detto in una conferenza stampa nel suo volo di ritorno da Filadelfia a Roma. Il sindaco Marino in realtà poi ha replicato, ha detto: ma non è vero, io non ho mai detto che il Papa mi ha invitato il sindaco. Vediamo se riusciamo a sentire la sua replica. Per quanto riguarda il pulpito di Silvio Berlusconi, beh, se Papa Francesco mi fa un sermone dal pulpito io mi inchino e rifletto. Se me lo fa una persona che, con tutto il rispetto, abbiamo appena parlato dei detenuti, sta scontando una pena, devo dire che lo prendo con misure diverse, quel tipo di riflessione. E questo era Marino. Adesso dicono, ne ha prese da tutte le parti, ci mancava che prendesse da Papa. Comunque, al di là di questo, che già ha creato molta polemica e tanta ironia e sarcasmo anche sui social network, però diciamo che il Papa ha fatto sobbalzare anche chi finora ha detto di lui che era rivoluzionario, che era controcorrente, che era anticonformista, perché uno ha detto, a proposito delle unioni gay, ha detto: l'obiezione di coscienza è un diritto di chi non vuole ratificare le unioni civili. È stato un caso in America, per esempio, di un'impiegata che non voleva ratificare un matrimonio, era stata arrestata brevemente e poi rilasciata. E c'è Grillini, storico leader del movimento gay, che ha detto: qui si tratta di un minculpap, diciamo, rifacendosi, parodiando il vecchio minculpop del ventennio fascista. E poi anche sulle donne ha detto Papa Francesco: no, è impossibile, non saranno mai sacerdoti, ma la Chiesa è donna. Ecco, forse dovrebbe spiegare a qualcuno questo paradosso Papa Francesco. Comunque abbiamo un sacco di cose da raccontare questa sera. Parleremo di questo faccia a faccia tra Obama e Putin, che in realtà ci sarà alle 23, però ognuno di loro già all'Assemblea Nazionale dell'ONU oggi ha tenuto il proprio intervento e se le sono un po' date a parole, poi invece sembra che abbiano si siano stretti la mano a pranzo, abbiamo fatto anche un brindisi, uno era sorridente, uno meno, poi ne parleremo di questo e anche di Renzi, che è stato a New York, si è detto soddisfatto dell'incontro con gli investitori americani. Poi ci occuperemo anche di questa nuova bacchettata da parte dell'Unione Europea, che dice questa storia della TASI, che volete togliere la TASI lì in Italia, spostate piuttosto le tasse dal lavoro alla casa e ai consumi. Ma Renzi di nuovo muso duro, ha replicato contro l'Europa: decidiamo noi cosa fare delle nostre tasse. A proposito di questo, che ne pensate? Sareste favorevoli anche voi ad aderire, diciamo, alla sollecitazione dell'Unione Europea, cioè di spostare le tasse dal lavoro, quelle che sono sul lavoro, su invece sulla casa, quindi senza levare la TASI, e sui consumi? Oppure siete d'accordo con Renzi? 349-238-6666, come sempre il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666. Oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Nota, che sto cercando di capire se funziona, qualcuno controlli se fosse nelle adiacenze di Facebook, nella possibilità di farlo, se non guida, se non stira quello che fa. Mi sa che c'è un blocco di Facebook, questa è un'altra notizia, potrebbe essere questa sera. Poi fra le varie parleremo anche della candidatura di un film italiano agli Oscar. La cosa particolare è un film postumo, perché è del regista Caligari, che è arrivato giusto in tempo a finire il film e poi è morto dopo una lunga malattia. Insomma, un sacco di cose come al solito. Intanto vi riassumo la giornata. L'Assemblea delle Nazioni Unite sulla Siria: Obama dà una stoccata a Putin. Assad è un tiranno, dice, mai con lui e con chi lo sostiene. Ma Putin replica: sbagliato non cooperare contro l'ISIS, che non è nato dal nulla. Bangladesh: l'ISIS rivendica l'uccisione del cooperante italiano di 50 anni colpito a morte in strada a Dhaka. Lo scontro Bruxelles-Renzi sulle tasse: dopo il nuovo invito dell'Unione Europea a spostarle dal lavoro alla casa, il Presidente del Consiglio replica: sulle tasse decidiamo noi. Lo scandalo Volkswagen: la bufera colpisce anche Audi, truccate oltre 2 milioni di auto, l'indagine sull'ex amministratore delegato Winterkorn. Il crack all'Italia, condannati gli ex vertici, 8 anni a Cimoli, 5 a Mengozzi e maxi risarcimenti alle parti civili. La frase del Papa scoppia il caso Marino, io non l'ho invitato a Filadelfia, chiaro, dice il pontefice. Marte, anche la NASA lo conferma, sul pianeta rosso scorre l'acqua ed è salata. Cinema Non essere cattivo, il film italiano candidato all'Oscar opera postuma di Claudio Caligari. E per il calcio salta la prima panchina di Serie A, il Carpi esonera Castori. Siamo quindi dalla 70ª assemblea dell'ONU, in cui si sono fatti particolarmente sentire gli interventi a distanza del presidente americano Obama e di quello russo Putin. Obama, durante il suo intervento, ha dato una stoccata alla Russia dicendo che ci sono delle potenze internazionali che agiscono in contraddizione con il diritto internazionale. C'è qualcuno, ha detto Obama, che ci dice che dovremmo sostenere dei tiranni come Assad perché l'alternativa è molto peggio. E Putin, nel canto suo, nel suo discorso, ha detto: per la lotta all'ISIS è necessaria una coalizione internazionale come fu contro Hitler, sottolineando poi che l'ISIS non è nato dal nulla, ma che qualcuno l'ha finanziato, e quindi, vi dicevo, ne parleremo in modo approfondito più tardi. A New York c'è anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che si è detto soddisfatto dei suoi incontri con gli investitori americani in Italia, ha anche replicato a Bruxelles su un nuovo richiamo relativo alle tasse. L'Unione Europea, vi dicevo, chiede di spostarle dal lavoro alla casa e ai consumi, ma Renzi risponde a muso duro. Questa volta è bene che gli italiani sappiano che non soltanto decidiamo noi, ma le riduciamo le tasse. Questo è il punto fondamentale. E io confermo qui che nella legge di stabilità ci sarà l'eliminazione della tassa sulla prima casa per tutti e per sempre. E voi cosa ne pensate allora? Siete d'accordo con Renzi o preferite, diciamo, il sollecito dell'Unione Europea che dice spostate queste tasse, levatele dal lavoro e mettetele piuttosto sulla casa e sui consumi? 349-238-6666, vediamo se la pagina Facebook funziona. No, ancora al momento è bloccata, non so le vostre. Poi passiamo invece a quanto è successo in Bangladesh. L'ISIS ha rivendicato l'uccisione di un italiano, Cesare Tavella. Il cooperante 50enne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel quartiere diplomatico della capitale, Dhaka. L'ISIS avrebbe rivendicato questo omicidio, ma le autorità italiane stanno verificando l'attendibilità di questa rivendicazione. E poi c'è lo scandalo Volkswagen, indagato l'ex amministratore delegato, il titolo ancora in sofferenza in borsa. Berlino non sapeva quello che accadeva in casa Volkswagen, soprattutto non sapeva nulla del software che truccava i test sulle emissioni, riferisce il ministro dei trasporti tedesco. Anche l'ex numero uno Winterkorn, ora indagato, si è dimesso mercoledì scorso, ma dichiarando: non c'entro niente con lo scandalo, me ne vado per il bene dell'azienda. E per il bene dell'azienda il nuovo amministratore delegato Müller dovrà darsi da fare. Il governo entro il 7 ottobre vuole una soluzione per gli 11 milioni di motori diesel taroccati, tra questi anche oltre 2 milioni di Audi, ma soprattutto i vari paesi vogliono chiarezza. Le notizie che arrivano spesso non sono ufficiali, ma frasi o voci riportate. Così ribadisce il ministro Del Rio. Noi abbiamo chiesto una verifica molto approfondita alle autorità tedesche, agli omologatori. Abbiamo chiesto di sapere quali autovetture sono state potenzialmente esposte a questo inganno. Un inganno da cui potrà scaturire una class action anche in Italia, dice il ministro, e il Codacons ha già raccolto oltre 12.000 preadesioni. Tutte notizie che mandano al tappeto Volkswagen, che ha perso oltre il 7%, il settore auto in Europa soffre e Fiat Chrysler cede il 5%. Livia Zancanera, Radio 24, Sole 24 Ore. E dallo scandalo Volkswagen al crack all'Italia, 4 condanne e 3 assoluzioni. Così si è concluso questo processo per il crack della vecchia Alitalia nella gestione 2001-2007. Tra gli altri è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione Giancarlo Cimoli e disposti anche dei risarcimenti milionari. Intanto per l'economia italiana arriva una buona notizia: ottimismo di imprese e consumatori, mai così da oltre 13 anni. Famiglie ed imprese guardano al futuro con maggiore ottimismo. A settembre, infatti, secondo le rilevazioni Istat, l'indice del clima di fiducia dei consumatori sale a 112,7, il livello più alto da oltre 13 anni. Balzo in avanti anche per l'indicatore delle imprese, che raggiunge 106,2, il massimo dal 2007, quando segnò 107,1. Ad aumentare sono tutte le componenti considerate, da quella economica a quella personale. Si tratta di segnali, commentano dal governo, che confermano che la strada intrapresa è quella giusta, così il ministro delle Infrastrutture infrastrutture del Rio. Abbiamo sempre detto che lavorando ogni giorno sui problemi, cercando di mettere avanti le soluzioni con disciplina, si poteva riacquistare la fiducia della gente, delle famiglie, delle imprese. Di moderati segnali di miglioramento parla quindi Federmeccanica, che indica una crescita nel primo semestre dell'anno dei volumi produttivi. La ripresa è tuttavia ancora debole, dice il vicepresidente Dal Poz. Ci sono settori che stanno andando piuttosto bene, che hanno un export molto importante, prima tra tutti il settore legato all'auto. Ci sono altri settori, come quello legato alla metallurgia, che sta ancora soffrendo molto. Federmeccanica ha quindi ribadito la necessità che si acceleri sul cammino delle riforme per ridare competitività al paese. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come sentivamo all'inizio, ho fatto sentire questo passaggio del Papa, diventa un caso la frase di Papa Francesco sul sindaco Marino: non l'ho invitato io in America, chiaro? Sembra quasi uno scontro d'altri tempi tra potere temporale e spirituale, se non fossimo nel 2000 e non fosse avvenuto oltreoceano invece che oltre Tevere. La presenza del sindaco Ignazio Marino all'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia imbarazza il Vaticano, tanto che al ritorno dal trionfale viaggio negli Stati Uniti è lo stesso Papa Bergoglio a bordo dell'aereo a precisare: io non ho invitato il sindaco Marino, chiaro? Ho chiesto agli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui si professa cattolico, è venuto spontaneamente, ma è chiaro, eh? Dopo l'intervento di Papa Francesco si prova a rimediare alla gaffe e dal Campidoglio precisano che è stato il sindaco di Filadelfia, Michael Nutter, ad invitare Marino nel solco della collaborazione tra le due città. Le spese sono state sostenute da Filadelfia, ma le critiche in Italia non mancano. Per l'ex sindaco Gianni Alemanno, Marino si è imbucato, mentre Matteo Salvini della Lega parla di figuraccia. E questa è Elisabetta Fiorito, questo servizio. Adesso invece siamo sulle notizie dall'estero, anche se questo in qualche modo era a cavallo, diciamo, tra Italia e Stati Uniti. E adesso con la Spagna, dopo la vittoria alle elezioni regionali catalane di ieri delle liste secessioniste che hanno conquistato la maggioranza assoluta, adesso bisogna capire quale sarà il proseguo di questa aspirazione indipendentista. Sergio Nava, ciao Sergio. Sì, ciao Roberta. Beh, è un vero dilemma, nel senso che ora la questione politica a Barcellona è di due tipi. La prima è innanzitutto formare un governo, perché la Generalitat catalana, che è, diciamo, è la regione della Catalunya, il governatorato catalano dove c'è Barcellona, ecco, per chi Barcellona, non si mette, esatto, ecco. Deve avere un presidente, e il presidente uscente, che è Artur Mas, non è gradito a quello che potrebbe essere l'alleato naturale dell'alleanza Junts pel Sí, che è l'alleanza secessionista indipendentista, che però non ha ottenuto, che ha stravinto le elezioni ma non ha ottenuto una maggioranza assoluta, e che ha bisogno dei voti di un'altra formazione indipendentista di sinistra, che è la CUP. La CUP non vuole Mas, vuole Junqueras, che è un altro leader secessionista. Quindi innanzitutto bisognerà capire questo, e in secondo luogo bisognerà capire che strada prenderà questa coalizione secessionista Junts pel Sí, perché se fatta è una coalizione innanzitutto molto eterogenea, che comprende un partito di centrodestra come Convergencia e partiti invece di sinistra come Esquerra Repubblicana. Innanzitutto è politicamente molto varia, si è presentata con un chiaro intento plebiscitario per avere un mandato secessionista indipendentista da Madrid. Rajoy non mi sembra che sia molto d'accordo, però il presidente Rajoy è molto debole, però fra meno di 3 mesi si vota, e lui ha detto dialoghiamo però no all'indipendenza, però è molto debole. Oggi Aznar l'ha attaccato per la strategia fallimentare che ha avuto con i catalani, e quindi bisognerà capire se ci sarà a questo punto una dichiarazione unilaterale di indipendenza, se si avvierà un processo costituente, porterà tra un anno e mezzo, 2 anni a una dichiarazione di indipendenza. È tutto abbastanza, bisogna dire, politicamente, anche come proprio governo catalano, diciamo, e anche come processo di indipendenza, molto in sospeso. Ricordiamo ancora una volta che a dicembre si vota in Spagna, e questa sarà un'altra tappa importante per capire quale sarà il destino di questa messa in marcia di una possibile indipendenza catalana. Un altro banco di prova. Grazie Sergio Nava. Grazie, ciao Sergio. Ciao. E ora direttamente dallo spazio si parla di rigagnoli di acqua salata che scorrono su Marte, lo ha rivelato oggi la NASA. La domanda è sempre quella: C'è acqua su Marte? Oggi sappiamo di sì. La vista all'occhio del satellite statunitense MRO, che orbita attorno al pianeta rosso, con l'obiettivo di scoprirne i segreti. Non si tratta di fiumi e laghi, né tantomeno di oceani, ma di piccoli rigagnoli che si formano con la condensa nella stagione estiva e scompaiono con l'abbassarsi delle temperature, lasciando una traccia di minerali dietro di sé. Sono stati proprio questi residui salati ad essere stati adocchiati dal satellite e aver permesso agli scienziati di ipotizzare la presenza dell'acqua in alcuni momenti dell'anno. Questo non fa del pianeta rosso un luogo più ospitale per l'uomo, ma potrebbe essere spia della presenza di marziani, cioè semplici forme di vita batteriche, magari simili a quelle presenti sulla Terra. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la notizia che riguarda il cinema, Non essere cattivo, il film italiano candidato all'Oscar per rappresentare l'Italia, è l'opera postuma di Claudio Caligari, nomination ci sarà il 14 gennaio, ne parleremo dopo con un critico cinematografico per capire il regista e anche la scelta, piuttosto sorpresa, di questo film. Per chiudere il calcio, salta la prima panchina in questo campionato di Serie A, il Carpi ha esonerato l'allenatore Fabrizio Castori, la decisione è confermata ma ancora da ufficializzare, arriva dopo la sconfitta per 5-1 a Roma, mentre a proposito invece di altre partite di vittoria, il Frosinone ha battuto 2-0 l'Empoli in un posticipo di Serie A. Leggo brevemente i vostri messaggi. Intanto la pagina Facebook, vi dico, è bloccata, completamente bloccata, è veramente questa cosa è in divenire, spero che si sbloccherà entro la fine della trasmissione. Invece guardavo i messaggi per il momento, il 349-238-6666, dice un ascoltatore o ascoltatrice, mi scusi, cosa c'entra il Mikul Pop col ventennio fascista, mette anche tre punti interrogativi, io gli consiglierei di prendere un libro di storia. Poi Fabio dice prop di casa e lav dipendente, ok, su idee dell'Unione Europea, quindi vorrà dire da proprietario di casa e lavoratore dipendente, immagino non siate proprio così sintetici, sono d'accordo con l'idea dell'Unione Europea, cioè di spostare le tasse dal lavoro alla casa. Poi Luca da Verona, ma quale tasi, sono briciole, il catasto è un disastro, costi standard e municipalizzate in perdita da anni non si toccano mai, vero? Dice Luca. Vittorio, cominciamo a tagliare i costi dell'Unione Europea. E poi ancora Luisa, assolutamente contraria all'abolizione della tassa sulla casa. Mario da Genova, l'eliminazione della tassa è un evidente regalo ai benestanti, le case di poco e medio valore hanno già grandi detrazioni. Questo a proposito dell'input che vi lanciavo all'inizio di questo duello tra Bruxelles e Renzi, Bruxelles che chiede di mettere piuttosto le tasse sulla casa e elevarle, quelle più pesanti, dal lavoro, mentre lui dice sulle tasse decidiamo noi, e ha riconfermato il taglio della tassa. Voi continuate i vostri messaggi al 349-238-6666, abbiamo la viabilità, ci sentiamo subito dopo. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Continuo i vostri messaggi, sempre sul duello Bruxelles-Renzi sulle tasse. Lucio dalla Svizzera, perché Effetto Notte lo ascoltano in tutto il mondo, bisogna dirlo questo a qualsiasi latitudine, dice, visto che l'Italia fa parte dell'Unione Europea, Renzi deve osservare i parametri dell'Unione, Renzi dovrebbe essere un po' più modesto. E poi qualcuno informa, Facebook è bloccata per tutti, credo non si riesce ad accedere, neanche io, a vedere i vostri messaggi. Poi Emanuele da Mantova, sono d'accordo con l'Unione Europea. Ora vi ricordo quali sono le notizie principali e poi ci addentriamo man mano negli argomenti. Faccia a faccia l'assemblea dell'ONU, Obama, Putin, scintille sulla Siria, Barak dice mai con Assad, è un tiranno, e Putin dice sbagliate tutto, bisogna unirsi. Italiano ucciso in Bangladesh, l'ISIS rivendica l'agguato del cooperante crivellato di colpi in una strada a Dhaka, ma l'Italia sta verificando se effettivamente questa rivendicazione sia attendibile. Il Papa dice i muri antimmigrati cadranno, non sono una soluzione, e poi scoppia il caso su Marino quando dice io non ho invitato il sindaco a Filadelfia, la bufera Volkswagen colpisce anche l'Audi, truccate oltre 2 milioni di auto, e intanto è indagato l'ex amministratore di Volkswagen. E poi c'è questa diatriba, questo duello, abbiamo detto, tra Bruxelles e Renzi sulle tasse, che l'Unione Europea vorrebbe si spostassero dal lavoro sulla casa. La Catalogna al bivio, ne abbiamo appena parlato. Poi 4 condanne per il crack all'Italia, risarcimento milionario anche per le parti civili, 8 anni e 8 mesi per l'ex amministratore delegato Cimoli. E poi su Marte fiumi di acqua salata appaiono con le stagioni, una conferma dal satellite americano. È tutta americana effettivamente questa prima pagina qui di Effetto Notte, questa primissima, poi andremo su altri argomenti, perché è in corso la 70ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata principalmente alla questione siriana, anche se prima però parliamo del nostro Presidente del Consiglio Renzi, che è a New York e che ha fatto tutto un giro degli investitori americani per quanto riguarda l'Italia. Si è detto soddisfatto, ha detto c'è un clima di ritrovata fiducia verso l'Italia. Chiediamo conferma all'inviato del Sole 24 Ore Gerardo Pelosi. Ciao Gerardo. Buonasera a voi, qui è pomeriggio come sapete. E che ore sono? Noi non eravamo naturalmente nella sede di questa BlackRock, che è la più grande compagnia, società, fondi di investimento. Larry Fink, il presidente e CEO di BlackRock, è un uomo che muove veramente centinaia di miliardi e può decidere con un'alzata di sopracciglio qual è il paese dove investire e quello invece dal quale ritirarsi. Speriamo che abbia delle grosse sopracciglia, sì. Sembra di sì, e sembra che sia dipeso proprio da lui nel passato anche quelle ondate di vendite che avevano portato l'Italia nel 2011 veramente sull'orlo del baratro con lo spread oltre 500. Ma che cosa è successo? Un anno fa Renzi era già venuto qui a partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aveva visto gli investitori americani che gli chiedevano se l'Italia avrebbe fatto la fine della Grecia. Qui invece dopo un anno e gli chiedevano che cosa sarebbe stato della riforma del mercato del lavoro, riforma della pubblica amministrazione, la stabilità politica garantita da un nuovo sistema elettorale. Ebbene, dopo un anno Renzi ci dice che queste domande non ci sono più perché è un dato acquisito che le riforme, quelle che non sono state fatte, comunque sono messe in cantiere e il processo ormai è irreversibile. E tutte le domande riguardano la politica europea, l'economia europea, insomma non più cose che dipendono soltanto dalle scelte del governo italiano, e questo già è un fatto positivo e il clima è stato quindi molto molto positivo sull'Italia. Grazie Gerardo Pelosi da New York, ciao Gerardo. Ciao a voi. Ora invece rimaniamo sempre naturalmente la grande mela con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao. Quindi oggi c'è stato, definirlo storico questo incontro, bisogna capire che insomma fino adesso i rapporti tra Obama e Putin, abbastanza di recente, da quando è iniziata insomma soprattutto la crisi siriana, erano piuttosto tesi. Ho letto di una stretta di mano, di un brindisi, di un Putin sorridente in una foto, mentre pare che Obama fosse molto serio. Oggi comunque ci sono stati l'intervento dell'uno e dell'altro, no? Lì all'ONU, all'Assemblea dell'ONU. Sì, assolutamente, ci sono stati due interventi, uno dopo l'altro, prima Obama, poi Putin. Mentre parlava Obama, Putin si è tenuto ben lontano dall'Assemblea Generale, quasi a segnalare che va bene, ci si parla, però che una certa freddezza e una certa distanza resta, come poi hanno dimostrato gli interventi, e due interventi che poi saranno seguiti fra non molto, proprio fra un verso le 5 ore americane del pomeriggio, quindi fa un'ora e mezza, da un faccia a faccia tra i due, un faccia a faccia che non avviene in maniera così formale e così intensa da parecchio tempo, da oltre un anno, scusate, dall'escalation delle crisi. Chissà se avranno i guantoni, sia in Siria che in Ucraina. Ecco, c'è da domandarselo, perché i due interventi, seppur entrambi hanno aperto delle porte alla possibilità di dialogo e di cooperazione, hanno però anche rimarcato le differenze, mentre Obama ha messo in chiaro che è disposto a cooperare, a lavorare, a discutere con tutti, Russia e Iran compresi, per trovare una soluzione alla crisi siriana, ha però anche ribadito la posizione di principio che una soluzione alla crisi siriana dovrà comportare una transizione del regime, una transizione del governo siriano, un abbandono di Assad, mentre al contrario Putin ha ribadito che Assad è oggi l'unica alternativa all'avanzata dei terroristi di ISIS. Grazie Marco Valsania. Ciao Marco. Grazie a voi. Vedo un ascoltatore che già precede, dice: ha ragione Putin, meglio il male minore Assad piuttosto che ISIS. E Obama oggi ha subito tirato nel suo intervento abbastanza all'inizio questa stoccata a Putin, dicendo: ci sono delle potenze internazionali che agiscono in contraddizione con il diritto internazionale. C'è qualcuno, ha detto, che ci dice che dovremmo sostenere dei tiranni come Assad perché l'alternativa è molto peggio. Gigi Donelli. E Putin non ha perso occasione per ribadire immediatamente, nelle prime parole del suo intervento ha detto: l'Occidente si è reso conto di quello che ha fatto in Siria, cioè ha posto immediatamente questa questione. Ora, il Presidente degli Stati Uniti naturalmente legittimamente ci tiene a sottolineare l'elemento dei diritti. Nel mondo molti paesi sono scettici su questa linea, nel senso che poi si chiedono... Perché ha detto, scusami, Assad brutalizza il popolo e quindi serve un nuovo leader, no? Cioè, ha ucciso uomini e donne. Questa è la richiesta del Presidente degli Stati Uniti, che naturalmente, non dimentichiamolo, prima che scoppiasse la guerra in Siria, la Siria esisteva da 3 millenni e era il paese chiave dei rapporti sovietici e russi nel Mediterraneo, in un'area circondata da alleati, diciamo, più o meno naturali degli Stati Uniti, tanto per comodità l'Italia, l'Egitto da una parte, la Turchia che ancora oggi è il grande alleato della NATO Oriente. Quindi da una parte ci sono gli interessi che sono divergenti per definizione, c'è un alleato russo da una parte e il resto del mondo. Su quello che poi sono le scelte appunto di come gestire le crisi, effettivamente Putin ha avuto, diciamo, buon gioco in queste ore, perché quando ha ricordato, tu dicevi delle stoccate, se le sono scambiate. Beh, lui così ha detto che l'ISIS non è nato dal nulla. L'ISIS non è nato dal nulla e ha poi citato anche l'abitudine di vecchie potenze che intervengono e finanziano con armi dei presunti liberatori che poi diventano incontrollabili. Ora, la citazione riguardava effettivamente l'ISIS, ma si spingeva fino all'Afghanistan, si spingeva fino ai talebani in Afghanistan, dove, non dimentichiamolo, i russi hanno ancora, come dire, qualche memoria specifica. Insomma, al di là di tutto questo, che sono davvero le storie delle relazioni tra due paesi, c'è però, a mio avviso, da segnalare una sensazione di un'urgenza da parte dell'Europa, che viene molto attratta da questa ipotesi di Putin. Perché? Da una parte, in queste ore abbiamo il presidente francese che fa i suoi raid in Siria. Sono 4 anni che vengono fatti i raid in Siria e l'ISIS non solo non si è indebolito, ma si è rafforzato. Per quale ragione raid di singoli paesi, oggi che sia la Francia, l'Italia, il Regno Unito, dovrebbero cambiare questo meccanismo? Ora, è chiaro che c'è un nodo. La crisi tra questi due signori in realtà è riesplosa per l'Ucraina. Il 22 febbraio di ormai 2 anni fa, sembra storia, ma non è neanche 2 anni fa, Maidan. Maidan vuol dire una nuova linea della politica ucraina, quindi di un grande paese dell'est nell'Europa centrale e orientale, che per Putin è stata chiaramente manovrata dagli Stati Uniti. Ora, questo punto ha creato il conflitto, questo punto ha creato le sanzioni che Europa e Stati Uniti hanno deciso nei confronti della Russia, e probabilmente oggi la grande tentazione da parte dell'Europa soprattutto è di trovare un appeasement, una soluzione che da un lato contenga l'ISIS e dunque non replichi più queste stati di profughi che arrivano da noi, al di là della nostra volontà o meno di accoglierli. Ecco, questa tentazione è molto forte, e dall'altra ce n'è una ancora. Paesi come l'Italia, la Francia l'hanno sempre detto, la Germania, le relazioni con la Russia, anche sul piano economico, sono importanti, sono molto diverse rispetto agli interessi che può avere gli Stati Uniti. E quindi diciamo che c'è un gioco a tre. Abbiamo visto noi con le sanzioni alla Russia per quanto riguarda le importazioni, il commercio, l'esportazione. E soprattutto le esportazioni dei nostri beni di lusso. Insomma, gli interessi tra alleati non sono necessariamente identici. Oggi di certo è successa una cosa. Prima Gerardo Pelosi da New York diceva un anno fa. Beh, un anno fa era il gelo tra questi due signori. Quindi questa stretta di mano con tutti i limiti e le stoccate, Brindisi uno serio è comunque un chiaro passo in avanti che interessa Putin, che probabilmente oggi vuole, diciamo, conquistata, riconquistata la Crimea e affermata la sua presenza nella sfera ucraina, bene, ritiene probabilmente che ora sia venuto il tempo di riaprire il dialogo. Certo, Obama da questo punto di vista è l'uomo più libero del mondo, nel senso che non ha l'elezione il prossimo novembre, non potrà essere rieletto, e gli Stati Uniti hanno interessi che evidentemente sono di geopolitica diversa, più ampia rispetto a quella che possiamo avere noi europei. Insomma, ci sono, tutta da costruire. Ci sono buone ragioni per pensare che questo faccia a faccia che ci sarà circa le 23 ora italiana potrebbe avere un risultato di mediazione almeno sulla questione più emergente, la crisi della Siria. Questo incontro segue due incontri dei numeri due dei rispettivi governi, quindi il capo della diplomazia americana e il capo della diplomazia russa si sono incontrati due volte nelle ultime 48 ore. Di solito queste cose non accadono perché i due signori decidono di farlo. Grazie Gigi Donelli. Grazie. Ciao Gigi. Adesso, prima di lasciarci per la prossima parte di Effetto Notte, volevo ancora dare uno sguardo ai vostri messaggi, mentre vi confermo che Facebook è completamente bloccato, sarà bloccato in tutto il mondo evidentemente. Questa notizia, Gigi Donelli ha alzato le sopracciglia come i signori di BlackRock, non so se vuole quindi spostare grandi investimenti da una parte all'altra del mondo, ma sappi anche tu che Facebook è bloccata, quindi continuate a scrivere al 349-238-6666. Ha ragione Bruxelles, dice questa ascoltatrice o ascoltatore, cancellare le tasse sulla casa è una manovra tesa al consenso, sono avvantaggiati quelli che hanno più case e hanno intestato ai congiunti eccetera, la cosiddetta prima casa. Poi eliminare la tassa, un altro messaggio, sulla prima casa è aumentare quella sulla seconda, terza, quarta. Ancora Loris da Treviso, sono d'accordo con l'Unione Europea, dice invece che appunto di spostare le tasse dal lavoro alla casa. Maria da Roma, sarebbe molto meglio tassare le rendite e i grandi patrimoni. Voi continuate con le vostre riflessioni su questo duello tra Bruxelles e Renzi a proposito di tassi. Ci prendiamo una piccola pausa di ricreazione e poi cominciamo con gli altri argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sono ancora alle prese con Facebook, vediamo se funziona adesso, se è colpa di questo computer o una cosa internazionale. Roberta Giordano sempre con voi, con me anche i vostri messaggi, per ora quelli SMS al 349-238-6666, perché appunto sto cercando di sbloccare con un cacciavite Facebook qui dal computer. I vostri messaggi, alcuni sono su quello che si era detto prima a proposito della polemica su Marino e quello che ha detto il Papa. Dice Lidia, Marino sta sulle scatole anche a quel santuomo del Papa, ce ne vuole. Poi invece Clotilde sottolinea che Marino aveva detto che l'aveva invitato il sindaco di Filadelfia. Io ricordo, onor del vero, l'ho già pensato stamattina, mi ricordavo che aveva detto che l'aveva, al di là di tutte le cose che si possono criticare a Marino. Dice Clotilde, sentire l'indagato Alemanno che si indigna per Marino è rivoltante. 349-238-6666. Adesso cominciamo invece con questo argomento. Cristiano da Torino scrive, per 1067 euro di stipendio l'azienda costo quasi 1800 euro. Di cosa stiamo parlando? Evidentemente allora è d'accordo con l'Unione Europea che dice che bisogna spostare le tasse dal lavoro sulla casa. Benedetta dice, ha ragione la Commissione Europea, bisogna abbassare le tasse sul lavoro, solo così potrà ripartire l'economia italiana. E poi Umberto, lavoratori dipendenti sono i primi contribuenti dello Stato italiano, ridurre le tasse sulla casa fa clamore elettorale e provoca danni alle casse dello Stato, ma Renzi e Co dovrebbero studiare un bigino di politica economica invece di pensare solo alle elezioni. Tra pochissimo scenderemo in modo più approfondito in questo argomento, però prima vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. L'Assemblea delle Nazioni Unite sulla Siria, Obama dà una stoccata a Putin, Assad è un tiranno, dice mai con lui e con chi lo sostiene, ma Putin replica, sbagliato non cooperare contro l'ISIS che non è nato dal nulla. Bangladesh, l'ISIS rivendica l'uccisione del cooperante italiano di 50 anni colpito a morte in strada a Dhaka, ma la Farnesina sta controllando l'attendibilità di questa rivendicazione. Lo scontro Bruxelles-Renzi sulle tasse, ne parleremo tra pochi istanti. Lo scandalo Volkswagen, la bufera colpisce anche Audi, truccate oltre 2 milioni di auto, indagine sull'ex amministratore delegato di Volkswagen. Il crack all'Italia, condannati gli ex vertici, 8 anni a Cimoli, 5 a Mengozzi e maxi risarcimenti alle parti civili. La frase del Papa, scoppia il caso Marino, io non l'ho invitato a Filadelfia, chiaro, dice il pontefice. Marte, anche la NASA lo conferma, sul pianeta rosso scorre l'acqua ed è salata. Cinema, non essere cattivo, il film italiano candidato all'Oscar, opera postuma di Claudio Caligari. E per il calcio salta la prima panchina di Serie A, il Carpi esonera Castori. Quindi vi ho visti intervenire piuttosto cospicuamente su questo argomento, questo scontro tra Bruxelles e Renzi su questioni di fisco, secondo il rapporto della Commissione Europea, una cosa in realtà che va avanti da qualche tempo, ma secondo il rapporto della Commissione Europea che analizza le riforme fiscali dei vari paesi, l'Italia, come molti altri stati membri, ha un peso fiscale relativamente alto sul lavoro, dice, ci sarebbe almeno un margine per spostare il peso fiscale a imposte meno distorsive come quelle sui consumi, quelle ricorrenti sulle proprietà immobiliari e quelle sull'ambiente. Renzi però ha replicato proprio a muso duro, come già aveva fatto più o meno un mese e mezzo fa. Sentiamolo. Questa volta è bene che gli italiani sappiano che non soltanto decidiamo noi, ma le riduciamo le tasse. Questo è il punto fondamentale. E io confermo qui che nella legge di stabilità ci sarà l'eliminazione della tassa sulla prima casa per tutti e per sempre. Niente, quindi su questo non c'è niente da fare. Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Ciao, buonasera. Insomma, chi ha ragione in questo duello? È una bella... Chi la vincerà? Beh, la vincerà lui. Renzi. Perché mi sembra che in modo abbastanza inequivocabile abbia confermato per l'ennesima volta che con la legge di stabilità verranno abolite le tasse sulla prima casa, sulla prima abitazione. Giusto, sbagliato, certamente insomma è uno di quegli interventi che fa discutere, perché uno potrebbe giustamente decidere che quella lì è la strada giusta per dare diciamo più fiducia alle famiglie, che a giugno e a dicembre non avrebbero, insomma, non avranno più questa imposta da pagare, oppure invece, come peraltro diciamo sostiene questo lavoro, questo rapporto della Commissione Europea, potrebbe fare un discorso teso invece a incidere di più sui salari, quindi andando a ridurre la pressione fiscale sul lavoro, laddove per lavoro secondo me significa sia sul lavoro dipendente sia sul lavoro in generale, quindi anche sulle imprese che sono comunque caricate di un prelievo fiscale importante. Quello che è vero è che diciamo da molti anni non solo la Commissione Europea ma anche studiosi autorevoli ritengono che sia preferibile avere un carico fiscale un po' più pesante sui consumi, sul patrimonio e secondo alcuni anche sul diciamo prelievi di tipo ambientali che non sul lavoro, quindi sui redditi dei lavoratori oppure delle imprese. Sono due visioni che si scontrano, ma qui evidentemente non è tanto la visione che è in gioco, è in più insomma quello che per Renzi rappresenta questa promessa di togliere la tassa sulla prima casa, che io penso non sia diciamo di per sé sbagliata. Peraltro bisogna anche, a dire il vero, riconoscere che per Renzi questo è il primo passaggio, il primo step di un piano in tre mosse che porterà per gli anni successivi a intervenire prima sulle tasse sulle imprese e poi sulle tasse dei lavoratori. Quindi lui la prima mossa la vede lì. Forse la cosa diciamo che lascia un po' perplessi è che quando lui dice per tutto e per tutti, quindi noi immaginiamo che insomma anche le case, le supercase di lusso, prime abitazioni, sì, eccetera, verranno completamente esentate, il che forse non è proprio equo. Non è proprio equo, se posso dire. Credo di poter dire che sono d'accordo con te. Comunque diciamo qui. Grazie Chicco Padula, probabilmente con quella spunterà lui. Grazie. Ciao. Chicco, viabilità. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Pochi secondi, notizie più importanti. Gli interventi di Obama e Putin all'ONU scintille sulla Siria hanno fatto, ma poi dovrebbero incontrarsi alle 23, forse sarà un faccia a faccia più diciamo mediativo. Italiano ucciso in Bangladesh, l'ISIS rivendica l'agguato di questo cooperante, il Papa fa in qualche modo indirettamente scatenare la polemica sul sindaco Marino e poi prosegue la bufera Volkswagen che colpisce anche Audi. Europa 24 notte. Parliamo della tutela dei passeggeri aerei. La Corte di Giustizia fa un passo in più nella tutela dei passeggeri degli aerei, fa rientrare i guasti tecnici nelle circostanze che danno diritto alle tutele europee. In caso di annullamento o grave ritardo di un volo per un guasto, i passeggeri hanno diritto quindi all'assistenza e a una compensazione secondo la distanza. Le compagnie aeree non sono tenute all'indennizzo solo se provano che sia avvenuto per vizi di fabbricazione, sabotaggio o terrorismo. Spiega come devono fare i consumatori europei la direttrice del Centro Europeo Consumatori, Maria Pisano, al microfono di Anna Marino. In questo caso la Corte va oltre, nel senso che comunque già le indicazioni dei National Enforcement Body erano che non tutti i guasti tecnici tuttavia potevano essere considerati circostanze eccezionali, perché tutti quei guasti che sarebbero scaturiti da una non corretta manutenzione dell'aeromobile comunque non potevano essere considerati circostanze eccezionali in quanto imputabile alla compagnia. Stavolta la Corte va un pochino più oltre rispetto a questa interpretazione dei National Enforcement Body, perché il discorso è che anche eventualmente l'inaspettata usura anzitempo di un pezzo non può più essere considerata circostanza eccezionale, rientra nell'ordinaria manutenzione dell'immobile, quindi la compagnia che comunque ha un maggior onere nel controllo. Problemi tecnici imprevisti non sono considerabili circostanze eccezionali, quindi in caso di annullamento perciò o grave ritardo di un volo, in caso di guasto, i passeggeri a che cosa hanno diritto? Bisogna verificare caso per caso, e questo è un compito che viene svolto dai National Enforcement Body, effettivamente verificare se la compagnia, pur adottando tutte le misure del caso, in questo caso la Corte di Giustizia aggrava l'onere della compagnia su un discorso di attenzione nella manutenzione dell'aeromobile, allora in questo caso hanno diritto a una compensazione pecuniaria, quindi a un risarcimento forfettario che va a seconda della lunghezza della tratta da 250 euro a 600 euro. Ricordiamo anche che il regolamento 261 del 2004, che è applicabile in queste circostanze, prevede altresì la possibilità di chiedere anche maggior danni se ci sono dei danni supplementari che questa compensazione forfettaria non è in grado di soddisfare, allora il consumatore può andare anche oltre nella richiesta. La compensazione va comunque sempre riconosciuta se la circostanza è eccezionale. Il rimborso del biglietto solo laddove comunque è stato cancellato il volo e quindi il consumatore ha dovuto non ha ottenuto un volo di riprotezione, quindi non ha usufruito del servizio di trasporto. Nessuna compensazione invece è dovuta se il vettore può provare l'annullamento imputabile a circostanze eccezionali. In questo caso noi, quando comunque il vettore adduce circostanze eccezionali, quello che possiamo consigliare è comunque rivolgersi ai National Enforcement Body, che per l'Italia è l'ENAC, perché essendo un authority di vigilanza ha anche il potere di accertare la natura delle circostanze che il vettore adduce per non pagare la compensazione. Quindi in aeroporto si può chiedere fin da subito questa compensazione? Sì, si può fare un reclamo al desk della compagnia, oppure quando si ritorna tranquillamente a casa, tra l'altro sul nostro sito sono anche disponibili dei facsimili di lettera da utilizzare. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso quindi parliamo di cinema, parliamo del film italiano che è stato candidato agli Oscar, e non so quanto ci si aspettasse questa scelta. Ne parliamo con Boris Sollazzo, critico cinematografico di Giornalettismo. Ciao Boris. Ciao. Non essere cattivo, non tu, è il titolo di questo film postumo del regista Caligari. Si erano fatti vari nomi, no? Della Comencini, Castellitto, Bellocchio. Invece come mai poi è stato scelto questo film per rappresentare l'Italia agli Oscar. Se vogliamo, c'erano anche le scelte sicure di Garrone e Sorrentino. Certo. Questo però non ha impedito alla commissione, e veramente faccio i miei complimenti, per premiare quello che senza dubbio era il film italiano migliore da candidare per gli Oscar. Hai ragione tu quando dici che è una sorpresa, che non ce ne si aspettava tantissimo questo nome, perché Caligari è sempre stato un regista off, il film poteva sembrare troppo duro, e invece poi è arrivato il premio per merito, cioè il fatto di rappresentare l'Italia all'Oscar. Sarà una impresa difficilissima quella di entrare nella cinquina, ma questo regista che ha fatto il suo ultimo film, purtroppo essendo postumo. Ecco, la particolarità è proprio anche questa, che è un film postumo di Claudio Caligari, che è morto mentre lo stava finendo. È vero che lo ha finito l'attore, è anche stato produttore, Mastandrea. L'hanno finito il direttore della fotografia, il suo direttore della fotografia storico, l'ha finito Valerio Mastandrea, però bisogna raccontarla bene, nel senso che aveva finito Caligari la seconda stesura di sceneggiatura, di montaggio, e questo quindi aveva dato una chiara direzione anche al montaggio. Si può dire che ha aspettato di morire, come i grandi artisti fanno, per concluderlo con la sua firma, e loro hanno semplicemente seguito le sue indicazioni. Ne è uscito fuori un film bellissimo, un incrocio tra Scorsese e Pasolini, perché davvero in alcuni momenti sembra di vedere Mean Streets, sembra di vedere Accattone. Si paragona anche a Ragazzi di vita, no, di Pasolini? Assolutamente sì, poi ci sono citazioni su citazioni, il nome di uno dei protagonisti è preso appunto da Accattone, l'altro nome del protagonista è preso dall'Odore della notte, che è il secondo film di Caligari. L'altro era Amore tossico. Senti, ma dimmi una cosa, e siccome la storia di un'amicizia maschile di ragazzi un po' persi, diciamo, negli anni 90, che si drogano e cercano di ripulirsi, il titolo è Non essere cattivo, io invece provo a essere cattiva, non sono già cose riviste, io non l'ho visto il film, però dico il tipo di storia. Ma il tipo di storia può essere già visto, nel senso che è una storia classica, universale, una storia che parla di droga, una storia che parla di inadeguatezza, ma anche una storia assolutamente rivoluzionaria che noi non abbiamo mai visto in quei termini. Caligari vuole raccontarci che più della polvere bianca, della cocaina, può far male la polvere dei cantieri abusivi, può far male il lavoro, lo sfruttamento, quella può essere la vera droga di un paese capitalista che ha solo la logica del profitto in mente. E quindi anche una storia ambientata ad Ostia, quindi in una romanità molto forte, molto caratterizzata, diventa, come succede per esempio nei film di Scorsese, un qualcosa che riguarda tutto il mondo. E quindi anche in questo senso la scelta è una scelta illuminata, perché racconta in una realtà molto particolare, molto italiana, però una storia che riguarda tutti, che riguarda anche gli Stati Uniti. Non avremmo mai detto di Scorsese o di Coppola che riguardava solo la minoranza italiana o irlandese, non possiamo dire neanche di Caligari che si parla solo di Roma, ma si parla di ben altro. E allora incrociamo le dita, se il valore è questo, di quello che ci ha raccontato di questo film, staremo a vedere Boris Sollazzo. Io tifo tanto, è come se il Sassuolo vincesse lo scudetto, se riuscisse ad arrivare anche solo tra i primi cinque, quindi dovesse portare Valerio Mastandrea, Borghi, Marinelli, il direttore della fotografia a Hollywood per giocarsi questa partita. Tutto deve andare bene perché questo accada, devono vederlo le persone giuste, perché non ci sarà dietro un apparato produttivo chissà quanto danaroso, ma i sogni sono fatti per essere vissuti. È già un sogno che se la giochi per conquistare l'America, e perché non provare a vincere? Proviamoci, che se la giochi. Grazie Boris Sollazzo. È stato un piacere, a presto. È reciproco, ciao Boris. Oh, e adesso, visto che ci rimane ancora forse un minuto e mezzo, vorrei dare un po' di spazio ai vostri messaggi. Ho riattivato intanto, mentre parlavo, con una chiave inglese la pagina Facebook di Effetto Notte. Dovrei esserci riuscita. Vedo anche qualche vostro messaggio. La domanda iniziale era se eravate d'accordo più con la posizione dell'Unione Europea rispetto alle tasse. Sapete, questo ennesimo sollecito che ha fatto l'Italia di spostare piuttosto le tasse dal lavoro, il famoso cuneo fiscale, sulla casa, sugli immobili, anche sui consumi, mentre Renzi, lo avete sentito ancora una volta, ha risposto: questi sono affari nostri, l'Unione Europea semmai parli dell'immigrazione, di altre questioni, ci venga in aiuto su altri temi, su questo decidiamo noi, sappiamo decidere da soli. Vedo Marilena, anzi Cristiano, che dice: opportuno che ogni Stato nazionale abbia una legittima parte, una sacrosanta quota di autonomia legiferante che oltrepassino le logiche europee, purtroppo spessissimo simili a guinzagli che vincolano fino nei dettagli. Poi Ugo di Milano: sebbene non sia renziano, dice, si devono rispettare le autonomie dei popoli, inoltre non vi è governo, non vi è un governo politico europeo. Questo al 349-238-6666. Poi ancora questo invece su sulla questione sempre della tensione tra Obama e Putin sulla Siria. Mi chiedo se la scelta di togliere, no, questo è un altro, che Obama stia buono, abbiamo già troppi immigrati e pericolo ISIS, senza aumentare i rischi ISIS con la Siria. E poi invece ancora sulla questione tasse, qualcuno che fa della dietrologia: mi chiedo se la scelta di togliere le tasse non sia motivata più da un incentivo per investimenti dei grandi immobiliari statunitensi. Ci sentiamo alle 22:00.